Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Siamo in diretta, come ogni anno in questi casi, da Cernobbio, da Villa d'Este, dove si è aperta la prima giornata di lavori del workshop Ambrosetti. Tre giorni di lavori, venerdì, sabato e domenica. Domani arriverà il Presidente del Consiglio Mario Monti, domenica praticamente mezzo governo sarà presente qui a Cernobbio. E vi sarà anche un messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, questo è il titolo dell'edizione annuale del workshop Ambrosetti. Come sempre moltissimi manager, amministratori delegati, rappresentanti della finanza, non solo italiane ma anche a livello internazionale, economisti a discutere dello scenario, con una notizia e una novità che è quella di cui abbiamo parlato ieri praticamente quasi lungo tutto il programma, ossia la decisione di Mario Draghi, che non solo ha detto sì, si possono acquistare obbligazioni dei paesi in difficoltà, l'acquisto della Banca Centrale Europea lo può fare in maniera illimitata, ma soprattutto a livello forse più politico ha detto la decisione l'abbiamo presa non in maniera unanime, la Germania ha votato contro, ma insomma per la prima volta in maniera così forte la Banca Centrale Europea decide un'operazione di tale importanza anche se non c'è l'unanimità di tutti i componenti. Di solito si cercava comunque di avere un voto unanime. È una scelta importante perché vuol dire che si può andare avanti anche se tutti non sono d'accordo. E come vanno le borse oggi intanto? Più 2% Milano per quello che riguarda l'indice FTSE MIB. Sul fronte internazionale, segnalo Dow Jones meno 0,03%, Nasdaq meno 0,23%. Parigi invece più 0,42% e Francoforte più 0,67%, Madrid invariata. In questo momento euro a quota sul dollaro 1,279, quindi rafforzamento quasi quota 1,28. Parleremo dei vari temi toccati in questa prima giornata di lavori qui al workshop Ambrosetti, soprattutto del piano energia. Oggi erano presenti numerosi esponenti del mondo energetico italiano, il piano energia del governo, ancora diciamo un piano quadro non nel dettaglio, ma che dovrebbe sviluppare investimenti per complessivamente 180 miliardi di euro. Si punta molto all'approvvigionamento, a aumentare l'approvvigionamento nazionale, quindi a diminuire la dipendenza dall'estero, ad avere anche le fonti di accesso, leggi rigassificatori maggiormente implementate e anche a sviluppare le fonti rinnovabili. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms. In borsa molto bene oggi il Monte dei Paschi più 10%, ma anche Unicredit più 4,80%, Ubibanca più 3,60%, Telecom più 6,5%, Mediaset più 5,5%, segnalo anche Autogrill più 3,30%, Mediolanum più 3,1%, Enel più 3,1%, chiudiamo con Fiat e Atlantia che guadagnano il 3%, chi perde invece Campari meno 2,30%, Popolare di Milano meno 1,80%, Luxottica meno 1,5%, Tenaris meno 1%. Rapidamente le altre notizie in breve. Sempre sul fronte europeo, la Spagna oggi ha chiesto più tempo per decidere o meno sul salvataggio, se chiedere aiuto per il salvataggio. Gli spread, già ve ne ha parlato il nostro GR, ma insomma oggi sono andati bene, adesso è leggermente risalito a 359 punti il nostro, era sceso anche sotto i 350 punti, lo spread spagnolo invece è sotto i 415 punti e i bonus, i bot spagnoli rendono meno del 6%, non capitava da maggio, al 5,67%. Da parte di Berlino oggi Angela Merkel ha continuato a gettare acqua sul fuoco e a dire che comunque la Banca Centrale Europea agisce nel quadro del suo mandato. Il Premier Mario Monti oggi ha inaugurato la Fiera del Levante di Bari, dove Radio 24 tra l'altro trasmetterà molti programmi a partire da lunedì, saremo in diretta anche noi da Bari sia lunedì che martedì come Focus Economia, poi altri programmi tra cui Salvadanaio. Dicevo, al di là di questa nota di servizio, Mario Monti ha detto: beh, abbiamo evitato il tracollo dell'Italia e dell'Europa, non mi sorprendono alcune critiche che il governo ha ricevuto, anzi in alcuni casi le condivido. Non vorrei sorprendervi, ma alcune delle critiche rivolte all'azione del governo le condivido io stesso, o meglio, le condividerei se dimenticassi per un momento quale era e tuttora in parte è la sfida che ci siamo trovati ad affrontare. Credo che molte delle cose che sono state fatte abbiano sofferto di angustia. Prese tutte insieme, hanno permesso di evitare che l'Italia avesse un tracollo, forse per lungo tempo irreversibile, e con essa l'Europa. E poi il Premier Mario Monti è tornato anche sulla guerra all'evasione fiscale, la lotta all'evasione fiscale, l'ha definita una guerra di nuovo, una guerra di civiltà. Preferisco che l'Italia abbia conseguito l'obiettivo di schivare, credo, il precipizio e di essere una forza viva e creduta, non so se credibile, ma comunque creduta, dell'Europa, che ha molto concorso a dare questa svolta all'Europa. Preferisco che questi obiettivi siano stati conseguiti anche a prezzo, mi rendo perfettamente conto, di grandi, severi sacrifici per i cittadini, per le imprese, che abbiamo cercato d'altra parte, di nuovo nell'angustia dei tempi scarsi e delle risorse scarsissime, di piegare ad esigenze di maggiore rispetto dell'equità. È quello che stiamo cercando di fare, con aspetti che qualche volta danno l'idea di una guerra, ma è una guerra per la civiltà. Stiamo cercando di fare contro l'evasione fiscale e contro altre cose che sarebbe riduttivo considerare fenomeni economici e finanziari, perché sono fenomeni che minano alla radice la fiducia di ciascuno di noi nei confronti del vicino, nei confronti del lontano, nei confronti dello Stato. Così appunto il Presidente del Consiglio Mario Monti, e tra l'altro Monti ha anche risposto indirettamente a un sondaggio di Radio Core, che ogni anno compie un sondaggio tra i principali manager, banchieri, finanzieri, di cui adesso parleremo. Dico che ha risposto indirettamente perché dalla Fiera del Levante ha detto: escludo un Monti bis. Perché lo esclude? Perché dal sondaggio di Radio Core, oggi annunciato all'inizio proprio dei lavori qui al workshop Ambrosetti, era emersa un'indicazione molto diversa. Radio Core, come sempre, ha raggiunto 137 banchieri, manager, imprenditori ed economisti, e chiedo alla collega caporedattrice di Radio Core sulle 24 ore, Isabella Tasso, che domanda avete posto a questi banchieri, manager, imprenditori? Sì, abbiamo chiesto ai manager, agli imprenditori, se vedessero con favore un Monti bis. È stato un plebiscito a favore dell'attuale esecutivo, quello emerso dal sondaggio che, appunto, come dicevi Sebastiano, ha toccato 137 banchieri, manager, imprenditori, oltre a 275 soci dell'Assium Forex. Oltre l'80% ritiene che sia auspicabile un governo Monti bis. E allora sentiamo con una scheda che abbiamo preparato appositamente nel dettaglio perché e quali altre risposte articolate siano arrivate dal vostro panel. 349-238-6666 per i vostri sms. Quasi un plebiscito per il Presidente del Consiglio Mario Monti. L'86% degli intervistati ritiene infatti auspicabile un governo Monti bis che, di fronte ad una crisi ancora complessa e insidiosa, assicuri quantomeno una continuità delle politiche economiche. Sempre in tema di elezioni, ma questa volta americane, il cuore batte per Barack Obama, la cui riconferma viene giudicata preferibile per le prospettive dell'economia internazionale dal 57% del campione. Lo sfidante Romney ottiene appena il 20% dei consensi, mentre il rimanente 23% ritiene che, da un punto di vista economico, avere un inquilino della Casa Bianca democratico o repubblicano non faccia grandi differenze. Chiunque uscirà vincitore dalle elezioni del 6 novembre si troverà comunque ad affrontare tra i primi problemi l'aumento del debito pubblico, che ha ormai toccato la soglia dei 16.000 miliardi di dollari. Per 3 intervistati su 5, l'America sarà in grado comunque di gestire il problema ed evitare la recessione. Nel complesso, sembra emergere un cauto ottimismo sull'evoluzione da qui a 12 mesi della situazione europea. La metà degli interpellati ritiene che si andrà verso una maggiore unione politica. Il 29% pensa invece che non ci saranno cambiamenti significativi. Pochi i catastrofisti, il 9%, che prevedono una spaccatura in due del continente, ma sono pochi anche quelli che credono in un'uscita della Grecia dalla moneta unica, l'11%. Quanto infine al rischio di scalata per i grandi gruppi italiani che hanno sensibilmente ridotto la loro capitalizzazione di borsa, banchieri, imprenditori ed economisti inseriscono tra le potenziali prede soprattutto Unicredit, MPS, Generali, Telecom e Mediobanca. Ed ecco che su questo, proprio su Unicredit, ne parleremo con l'amministratore delegato del gruppo Unicredit, Francesco Ghizzoni. Per quello che riguarda invece i risultati di questo sondaggio, Isabella Tasso, al di là del Monti bis, che insomma è uscito, mi sembra che sia emerso anche un atteggiamento leggermente più positivo nei confronti dello scenario economico. Sì, quello che stupisce è appunto un atteggiamento abbastanza tutto sommato ottimistico da parte dei nostri intervistati. Per più della metà l'America riuscirà a evitare la recessione riportando sotto controllo il debito pubblico, ottimismo anche per quanto riguarda l'Eurozona, questo benché il sondaggio sia stato condotto prima dell'annuncio delle misure da parte di Mario Draghi. Ecco, oltre la metà del campione vede un'Europa più unita di quella che adesso, fra un anno. E immaginiamo che se l'aveste condotto dopo la decisione di ieri Mario Draghi, forse la percentuale sarebbe stata ancora superiore. Grazie Isabella Tasso, caporedattrice di Radio Core, che tra l'altro ci alza anche la palla per andare avanti e cercare di capire che cosa stia emergendo dagli interventi qui a Cernobbio, appunto al workshop Ambrosetti. Saranno presenti, sono già arrivati in alcuni casi Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione Europea, Olli Rehn, commissario europeo agli affari economico monetari, Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca Centrale Europea, Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio Europeo. Ripeto, tra sabato e domenica, oltre a Mario Monti, arriveranno i ministri Passera, Fornero, Grilli, Patroni, Griffi, e Nouriel Roubini, l'economista che per primo previde la crisi, ha parlato poco fa, ancora molto scettico su varie variabili. E allora, visto che citavo Roubini, ascoltiamo che cosa ha detto l'economista chiamato Mr. Doom, cioè colui il quale vede sempre in negativo, però finora ci ha azzeccato. Tra l'altro Roubini ha detto che in Italia non esistono alternative a Monti, al montismo, e che però l'Italia non avrà bisogno del fondo salva stati, che la decisione di ieri della Banca Centrale Europea va nella giusta direzione ma non cambia sostanzialmente le condizioni di gioco. The decision yesterday potentially is a positive, but I think that la decisione di ieri è potenzialmente positiva, ma penso che all'interno della BCE ci siano forze diverse, non c'è solo la Bundesbank. Ci sono anche altri membri della zona euro scettici su questo nuovo programma. Sono preoccupati dal rischio di credito per la Banca Centrale Europea, dall'azzardo morale dei paesi. Sono preoccupati che la Spagna, probabilmente o forse, ma anche l'Italia, possano chiedere l'aiuto della Troika. Le condizioni del programma saranno molto rigide, come ha detto ieri Draghi, perché dovranno garantire che le stesse vengano rispettate. Ma c'è anche il rischio che uno dei paesi in difficoltà cada dal precipizio, anche se è sostenuto dalla BCE. Mi riferisco alla Spagna, dove la recessione si aggrava, la disoccupazione aumenta, le banche sono in difficoltà, così come il settore immobiliare. La BCE potrebbe non essere in grado ancora a lungo di acquistare titoli di paesi in forti difficoltà economiche e di conti pubblici. Quindi credo che il programma della BCE sia un passo nella direzione giusta, ma non permetterà di cambiare le condizioni del gioco, solo di guadagnare un po' di tempo. Allora, avete sentito che insomma, le condizioni, secondo Rubini, di criticità restano e permangono. Devo dare un paio di risposte agli sms al 349-238-6666. Allora, va bene, dite, ma se lo chiedete a 130 banchieri è chiaro che siano tutti soddisfatti di Monti? No, secondo me non era necessariamente così chiaro, e comunque il sondaggio va fatto con chi è presente, non con il resto. Sappiamo le critiche che anche noi abbiamo espresso al governo Monti, ad alcune iniziative del governo Monti in questi mesi. C'è chi ci critica perché dice che difendiamo troppo Monti e Draghi. Guardate, su Monti il mio giudizio è molto più dialettico, su Draghi è molto più netto, è bravissimo, lo adoro, lo amo. Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, sempre su quello che è successo dopo la decisione di Mario Draghi, spread in calo e garanzie che la Banca Centrale Europea farà acquisti illimitati, se necessario, di debito dei paesi in difficoltà. Le banche penso che potrebbero avere qualche beneficio se gli spread scendono in termini di costo di raccolta, che potrebbero essere poi diventare beneficio a loro volta per la clientela in termini di costo del credito. Se la liquidità torna, se il mercato si rasserena un pochino, penso che anche le banche siano maggiormente in grado di fare credito. Ho visto pochi minuti fa, però devo ancora valutare, che i dati di luglio sono leggermente meglio di quelli di giugno, quindi in un mercato più sereno c'è più possibilità sicuramente di aumentare il credito alle imprese e ai privati. E visto che parliamo con i banchieri, oltre al numero uno di Unicredit, Federico Ghizzoni, abbiamo anche raggiunto, e lo ha fatto il nostro Simone Spezia, qui a Cernobbio, Tommaso Cucchiani, che appunto è stato legato di Intesa San Paolo. Anche per lui domanda analoga: cosa cambierà col piano anti-spread, chiamiamolo così, della Banca Centrale Europea? Io credo che sia stato un passo molto importante, direi molto forte, da parte di Draghi, che starà esprimendo una leadership molto concreta, molto precisa, molto pragmatica e molto forte. Però la soluzione complessiva richiede che si acceleri il progresso, il cammino verso l'integrazione europea, che vuol dire integrazione bancaria, integrazione fiscale, integrazione economica e eventualmente anche integrazione politica. È un cammino, a mio modo di vedere, irreversibile. Il non farlo presenterebbe dei costi assai elevati. Sta maturando la convinzione in tutti, o nella maggior parte diciamo dei player, che è opportuno andare in quella direzione. Cerchiamo di supportare questo cammino con coraggio. Il terzo elemento è che però tutto questo non è sufficiente se i vari stati non fanno i compiti a casa. Non possiamo, in particolare per chi ha una tradizione di assistenzialismo, pensare che l'assistenzialismo locale, statale, sia sostituito con un assistenzialismo che viene da Francoforte o Bruxelles. Questo vuol dire che dobbiamo continuare sulla strada delle riforme e dell'abbattimento del debito pubblico. No, le mosse sono certamente giuste, lo spread si sta muovendo nella direzione giusta, peraltro non aspettiamoci che ci sia un movimento lineare. Penso che ci possa essere un fenomeno da montagne russe ancora in futuro. Come dicevo prima, non abbiamo risolto tutti i problemi, è uno step nella direzione giusta, è uno step importante, è uno step coraggioso, ma ripeto, per stabilizzare lo spread bisogna che tutti facciano la loro parte. Yeah, yeah. Hey, hey. Così appunto il numero uno di Intesa San Paolo, Tommaso Cucchiani. Poi sentiremo altri ospiti che qui negli studi di Radio 24 a Villa d'Este, Workshop Ambrosetti, stiamo intercettando. Uno si è appena seduto e lo ringraziamo, è l'amministratore delegato del gruppo Avio, cioè uno dei gruppi leader a livello mondiale nel costruire propulsori aerospaziali, e mi riferisco a Francesco Caio. Buonasera. Buonasera a voi. Voi avete fatto 2 miliardi di fatturato l'anno scorso, ma i dati sulla semestrale sono di un incremento del e le proiezioni per l'anno 2012 di un incremento del 25%. 25% hanno, diciamo, una componente straordinaria nella prima metà, ma diciamo crescita comunque a doppia cifra per l'anno. Ecco, su questo, tra l'altro, voi operate in un settore tra virgolette di nicchia, com'è la propulsione, diciamo, nel settore aerospaziale. Ma proprio per questo lavorate su mercati internazionali. Allora vorrei capire se dal vostro punto di vista veramente l'Europa si è fermata, e se sì, in quali suoi componenti, e poi anche capire come si fa a fare un più 25% con una frenata che giusto ieri l'OCSE ci ha detto sarà peggiore del previsto, perlomeno nell'area euro. Diciamo, la risposta, le sue domande sono collegate per noi. Noi abbiamo un 85% del fatturato che è orientato a mercati non italiani, perché i nostri clienti lavorano principalmente su base statunitense e inglese, cioè i grandi motoristi globali, la General Electric, la Rolls Royce, che si rivolgono a loro volta a un mercato che è in forte crescita, tirato dai mercati cosiddetti emergenti, ormai belle che emersi. Noi beneficiamo di una crescita di lungo periodo del traffico aereo, che anche in questa fase non facile di economia ha comunque registrato un 6% anno su anno in termini di numero di ore volate. A questo si aggiunge un fattore di crescita legato ai vecchi aerei che vengono rimpiazzati dai nuovi a causa di efficienza energetica. Quindi la nostra visione è una visione che attraverso i motoristi ci fa capire che comunque il mondo nel suo complesso cresce, cresce ovviamente più in Cina e in Brasile che non ovviamente in Europa, ma cresce anche negli Stati Uniti e sul versante del traffico aereo anche in Europa. Ma mi sembra di capire che anche per voi comunque la fetta di mondo sempre più interessante sia quella dei paesi più che emersi, lei citava Cina, Brasile, potrei aggiungere India e forse Russia, con una tenuta dell'area europea. Detto questo, essere un gruppo italiano vi ha creato qualche elemento di freno oppure no? Cioè, in realtà, complice anche la crisi, si va a valutare ancora di più prodotto e capacità operativa di chi te lo vende? Io direi piuttosto questo, cioè noi siamo riusciti con investimenti continuativi in tecnologia e in sviluppo, con una forte rete di alleanza con università, non solo europee, ma sicuramente anche europee, a posizionare in una nicchia di eccellenza una capacità di sviluppo, di ingegneria e di manifattura che poi si traduce nell'apprezzamento dei clienti e nelle quote di mercato che abbiamo. Ecco, dottor Caio, lei è manager di lungo corso di gruppi privati di carattere anche internazionale, però vorrei capire, come abbiamo chiesto anche gli altri ospiti, secondo lei che cosa manca al resto del tessuto del paese? Voglio dire, noi abbiamo avuto dati ottimi sull'export anche in questi primi 6 mesi dell'anno, a dimostrazione che i distretti industriali tengono e sanno fare il loro lavoro, anche le piccole e medie. Stiamo intervistando in questi giorni gruppi di eccellenza a livello mondiale, il suo ma non solo. C'è però la sensazione che vi sia un tema di competitività e produttività per la parte più numerosa forse delle medie e piccole imprese di questo paese. Secondo lei, al di là di molta retorica sulla competitività, la produttività, l'essere più efficienti, che cosa manca? Secondo me l'Italia deve fare un grande salto in avanti su temi di non facile gestione, quali i tempi certi della giustizia, la corruzione, l'evasione fiscale. Se noi non voltiamo decisamente pagina su dei meccanismi di selezione della classe dirigente che sono ancorati al merito e non alla, in qualche modo, non dico complicità, ma insomma appartenenza, io penso sia difficile ricreare quel movimento di crescita vera, sottostante, che poi possa indurre la generazione più giovane, che è molto competente, a giocare e a rischiare la sua vita professionale in questo paese. Quindi, diciamo, meno cooptazione per una forma di capitalismo che delle volte è un capitalismo più cooptativo, più da salotto, e basato sulle relazioni di carattere non professionale e sì. più premio al merito. Sì. Da Cernobbio, per concludere, dal workshop Ambrosetti in questo primo giorno, abbiamo ascoltato anche diverse dichiarazioni, ma lei si attendeva un clima più negativo o ha trovato qualche elemento di speranza? Mettiamo così. Ma io penso che rifletta, come sempre, il mood generale del mercato. La giornata di ieri è il simbolo di questa decisione della BCE, va nella direzione di puntare a una maggiore stabilità, io direi a una minore volatilità. Come dicono gli inglesi, the proof is in the pudding. Vedremo come questa decisione si articola nella sua implementazione, ma quello che io considero di enorme valore è che è una decisione che trova la sua radice nel vertice di fine giugno, quindi è una decisione tecnica ma un forte ancoraggio politico che punta a più Europa. Che segue una decisione politica. Grazie a nome del gruppo Avio, Francesco Caio. Grazie a lei. E adesso noi andiamo in pubblicità, c'è il meteo, poi chiaramente la borsa, vi do però la chiusura definitiva, più 2,1% bene, quindi Milano anche oggi, la migliore, assolutamente la migliore in Europa, Parigi più 0,30, Francoforte più 0,70, Madrid invariata, l'America adesso è in negativo, meno 0,02 il Dow Jones, meno 0,20 il Nasdaq. Adesso facciamo la borsa e poi altri ospiti che ci raggiungeranno qui nei nostri studi di Radio 24. Una rapidissima risposta, ma guardate, insomma, non è che la radio si sia schierata, noi registriamo quello che è l'umore che è emerso dal sondaggio di Radio Core di 137 tra banchieri, manager e imprenditori. Sappiamo che l'umore di altre componenti sociali verso il governo è molto molto più negativo e lo raccontiamo tutti i giorni, insomma c'è spazio per tutti, non c'è spazio per la dietrologia, ve lo assicuro. Non c'è nessuna dietrologia da fare e invece c'è la borsa. Dicevamo Milano la migliore, positive complessivamente anche le altre borse europee, Milano più 2% per la precisione, più 2,09, rialzi ma più contenuti a Parigi più 0,26 e anche a Francoforte più 0,60. Per cento, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Le banche di nuovo beneficiate dall'effetto Draghi, soprattutto oggi in Monte dei Paschi, più 10,80%. Sì, ma certo. In generale oserei dire, poi ti lascio commentare, tutte le società che hanno molto debito, Monte dei Paschi ne ha tantissimo, ma anche Telecom Italia più 6,60 e Mediaset più 5%, più 5,50. Sì, certamente l'effetto principale delle parole di Draghi e soprattutto del conseguente calo dello spread sul BTP e dei rendimenti, quindi dei titoli di Stato italiano, si è avuto sulle banche. Tu ricordavi la performance del Monte dei Paschi, ma non solo, UbiBank ha guadagnato più del 4, così come Unicredit e bene anche Mediolanum e altri istituti di credito, quindi questo è l'effetto abbastanza scontato. Dall'altro canto effettivamente si è avuto un effetto positivo su quelle società che scontano molto, molto debito, che spesso è stato il motivo dell'indebolimento in borsa. È il caso di Telecom Italia che ha guadagnato il 6,6%, ma anche di Enel che ha guadagnato il 3,3%. E stesso discorso può valere anche per Mediaset, che è indebitata, non così indebitata, ma sicuramente entro la fine dell'anno dovrà iniziare a mettere mano alla riduzione del suo indebitamento, dovrà dire al mercato come intende farlo, e quindi un rialzo positivo per quanto riguarda Mediaset, più 5,6%. È stato questo un po' il fattore che ha spostato così in alto il listino, soprattutto italiano, oggi. Pochi titoli negativi, devo dire Campari, che però era cresciuto dopo l'acquisto del colosso del rum in Giamaica, Campari meno 2%, Popolare di Milano fa eccezione tra i bancari, meno 1,87, Luxottica meno 1,1, Pirelli meno 1%, Parmalat meno 0,90, direi Luxottica. Per quanto riguarda Luxottica rimane avvicinando al prezzo del vecchio, no? Sì, esatto, diciamo che permane quell'effetto, diciamo, depressivo sul titolo derivante dall'annuncio del collocamento di Delfin, che era stato annunciato fino a un massimo del 7%, il collocamento di quasi il 4% è avvenuto avvenuto ieri, è stato fatto a 27 euro, il titolo appunto adesso è sceso ulteriormente, oggi ha chiuso a 27,69, ieri aveva chiuso a 28 euro, e quindi questo effetto depressivo sul titolo probabilmente permarrà fino a che non si completerà questo collocamento. Per quanto riguarda Campari invece, che è stata la peggiore sul FTSE MIB, un effetto naturale di prese di beneficio, il titolo aveva superato i 6 euro, raggiunto i massimi storici dopo l'annuncio dell'operazione giamaicana che tu ricordavi in precedenza, e quindi una presa di beneficio che era nelle cose, che può darsi possa proseguire anche nelle prossime sedute. Ecco, tra i migliori e peggiori, molto bene il credito valtellinese, più 11,17% a 1,42 euro, del Monte dei Paschi abbiamo detto, anche il Banco di Desio più 10,27, Tiscali più 9,70. Si sono molto raffreddate invece le speculazioni sui titoli editoriali, il vero e proprio caso di borsa di fine agosto, inizio settembre, RCS, Rizzoli Corriere della Sera, che era arrivata a guadagnare diciamo il 350% in due settimane, oggi perde il 28,4%, e devo dire anche Classe Editori meno 7,2%. Sì, per quanto riguarda RCS naturalmente la volatilità è molto, molto elevata, appunto questa ulteriore perdita di oggi ne è testimonianza, meno 28%, peraltro proprio da Cernobbio sono arrivate alcune indicazioni da parte di alcuni dei protagonisti della partita RCS, si è detto che sono stati preallertati i soci del patto per una riunione che dovrà avvenire il 21 di settembre. Quindi soci a raccolta a fine settembre, si attende questo nuovo piano del nuovo amministratore delegato, però sembra, almeno quanto è emerso dalle dichiarazioni di alcuni dei protagonisti, che sia ancora diciamo così prematuro parlare delle varie opzioni sul tavolo, per cui nell'attesa di questo piano certamente ci attendiamo ancora, il mercato si attende una forte volatilità su questo titolo. E quindi da lì anche appunto dei ritracciamenti, come tu ricordavi, perdono tra l'altro anche Edison il 19% e Montefibre il 18%. Grazie Andrea Fontana, e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Coro, il Sole 24 Ore. Grazie Sebastiano, buona giornata. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. E noi continuiamo a raccontare, a raccogliere le impressioni di chi è presente a questa prima giornata di lavori. Ci ha raggiunto il presidente dell'ENI, Giuseppe Recchi. Presidente, buonasera. Buonasera, grazie. Diciamo, piano energetico del governo ancora diciamo per grandi linee, ancora solo di cornice, però mi sembra di capire che le direttrici siano un maggior investimento nelle rinnovabili, un maggior sfruttamento delle risorse nazionali, quindi cercare una minore dipendenza dall'estero, e anche una maggiore efficienza nel processo con l'aggiunta delle fonti di approvvigionamento, leggi, rigassificatori. È un piano che il governo stima avere 180 miliardi complessivamente in tutto il periodo di investimenti. Eni, da questo punto di vista, al di là del fatto che è partecipata dal Tesoro, dove intende puntare, dove vedete le maggiori possibilità anche di sviluppo? Dunque, il piano del governo intanto è molto prematuro commentarlo, perché è un piano ancora non esplicato e per cui poco si sa. Quello che vale la pena commentare invece è che ci sia l'idea di fare un piano, e questo lo trovo una radicale trasformazione. Cioè, noi veniamo da una gestione della politica molto di corto raggio da quando esiste la Repubblica in Italia. Cioè, raramente l'Italia è riuscita a fare delle strategie di lungo termine che riguardassero le modalità con cui pensa di crescere, con cui pensa di produrre GDP. L'energia in più ha un altro aspetto che va considerato, che è quello che riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti. Allora, su questo l'Italia ha costruito un hub molto importante. Spesso si è criticata la politica, le conseguenze di certe scelte, ma direi che guardando al presente, l'Italia oggi dal punto di vista dell'alternativa delle risorse, alternativa delle fonti di approvvigionamento, è in una situazione abbastanza favorevole, perché riceve gasdotti dalla Norvegia, dal nord-est, dalla Russia, dall'Algeria e dalla Libia. Quindi si è dotata di molti punti di ingresso, si è dotata di una abbastanza sufficiente diversificazione di risorse, fatto salvo che si è interrotto il programma nucleare, che era un modo per aggiungere un'ulteriore diversificazione, e oggi sta pensando a come fare la pianificazione della crescita futura, quindi tenendo conto sia del potenziale di risorse non sfruttate e sia proprio della sicurezza energetica, di cui sempre deve stare attenta. L'Italia è rimasta bloccata dopo una serie di decisioni, ultima quella derivante dall'incidente di Macondo della BP, a delle norme che sono figlie forse di reazioni così emotive, di immediato impatto. Cioè, per fare un esempio, dopo Macondo tutti i paesi del mondo hanno ristretto temporaneamente la capacità di perforazione nei loro mari e addirittura onshore. L'Italia è l'unica che non ha poi liberato queste restrizioni. L'America invece, che era il protagonista dell'incidente, adesso è di nuovo nel Golfo del Messico in piena attività. Invece l'Italia non ha liberato queste restrizioni, addirittura le ha rafforzate, per cui anche per il gas, che è una risorsa non inquinante anche in caso di incidente, si trova ad avere delle restrizioni che le impediscono di sfruttare un potenziale che le darebbe due vantaggi: intanto un business, per cui produrrebbe risorse, lavoro, manodopera, e soprattutto gli darebbe le risorse per produrre energia, abbassando quello che è il costo attuale dell'approvvigionamento italiano. Esatto. Ecco, su questo fronte, ma passando dall'energia alla visione globale di Eni, voi siete presenti in decine di paesi, avete una visione complessiva, al di là delle strategie dell'Eni, mi interessa capire se osserviate aree di maggiore interesse e aree di maggiore sviluppo, perché noi in questo periodo ci stiamo concentrando molto sull'Europa con una visione, per vari motivi, dovuta anche alla piega che ha preso questa crisi, che rischia di essere leggermente eurocentrica. E prima si ricordava con Francesco Caio di Avio quanto in realtà altre aree del mondo stiano crescendo e comunque permettono anche margini, non dico elevati, ma interessanti. Ma guardi, per quello che è il nostro business, noi dobbiamo un po' inseguire le risorse degli idrocarburi dove ci sono, sì, che generalmente non sono nei mercati sviluppati, ma sempre in posti ameni e difficili da raggiungere. Per cui noi abbiamo una capacità tecnica che ci ha permesso di raggiungere notevoli successi, in ultimo questa scoperta fatta in Mozambico, che è una delle più grosse scoperte di gas sicuramente di quest'anno, probabilmente anche del decennio, e per cui noi seguiamo un po' quello. Poi stiamo anche attenti a quella che è la dinamica delle risorse, per cui oggi c'è in corso una grandissima trasformazione nel mondo degli idrocarburi che premia probabilmente in futuro lo sviluppo delle risorse del gas, perché i prezzi del gas sono molto scesi, e per cui noi facciamo delle pianificazioni che hanno dei tempi molto lunghi. Pensi che dal momento della scoperta di un bacino al momento del suo sfruttamento e della fine del sfruttamento, cioè l'inizio dello sfruttamento dura 15 anni e poi per altri 10 anni, per cui è una strategia legata alle materie prime. Poi come società industriale lavoriamo in 80 paesi del mondo, per cui siamo abbastanza coscienti di quello che succede nel mondo. Certo. E vediamo che ci sono comunque sempre, dei posti nel mondo, dei mercati nel mondo che sono ad altissima crescita, che hanno una domanda di tecnologia fortissima, ed è quella domanda che per adesso ha tenuto in piedi il sistema in mancanza dell'Europa, sulla quale invece tutti gli investitori hanno preso del tempo per decidere, certo, evitando di investire. Ultima domanda riguarda la prima, la facciamo tutti gli ospiti, la prima giornata di lavori qui a Cernobbio. Abbiamo ascoltato un Rubini preoccupato per alcune variabili ancora in atto, per un prezzo del petrolio che potrebbe essere determinato dalle tensioni Israele, tensioni per modo di dire, dal rischio guerra Israele e Iran, e poi la variabile Siria. Complessivamente lei condivide quanto hanno detto altri nostri ospiti, che arrivare a Cernobbio dopo la decisione di Draghi di ieri ha, tra virgolette, rasserenato un po' il clima? Ma sicuramente ha messo un tassello nella composizione del puzzle dell'indeterminazione molto importante. Penso che questa crisi sia sostanzialmente una crisi politica. Rispetto a 3-4 anni fa nulla è cambiato nel mondo, cioè la demografia non è cambiata, la domanda di energia non è cambiata, la voglia dei paesi emergenti di crescere, di conquistare benessere e quindi la voglia dei paesi ricchi di tecnologie di vendergli la tecnologia che gli permette questa trasformazione non è cambiato. Quello che è cambiato è c'è stata una percezione che i meccanismi di funzionamento della governance di questo mercato incompiuto che è il mercato europeo non fossero adatti o soprattutto non fossero velocemente eseguibili. E quindi è rimasta in attesa di vedere se qualcuno riusciva a invece dare una definizione precisa. E nel frattempo ci sono state molte promesse e queste hanno creato attesa e soprattutto disillusione. Quindi quanto più membri di governi o parlamentari o economisti dicevano qualcosa, tanto più i mercati volevano confrontare questa promessa di fronte certo. a una verità. Ecco, la mossa della BCE di ieri è un passaggio verso conquistare questa verità. Non è l'unico che sarà necessario, ma direi uno molto importante. Grazie, mi sembra che su questo si stia creando, ma come era anche prevedibile, un certo consenso anche tra i partecipanti qui al workshop Ambrosetti a Cernobbio. Grazie al presidente dell'ENI, Giuseppe Recchi. Grazie a voi, arrivederci. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, torneremo sul piano energia del governo con altri ospiti, come dicevamo col presidente dell'ENI, un piano che è ancora diciamo, un piano quadro, non è nel dettaglio, però è uno di quei temi che si affrontano per il lungo periodo, non certo per il brevissimo, anche perché l'obiettivo è di ridurre di 15 miliardi di euro la bolletta energetica entro il 2020, attualmente noi paghiamo 60 miliardi l'anno di bolletta energetica, ridurre di 15 non sarebbe poco. E dico, torneremo su questo. C'è un altro piano del governo, il cosiddetto piano città per la riqualificazione dei centri urbani, che parte con una dotazione immediata di 2 miliardi di lire. Due miliardi di euro tra effetti diretti e indiretti nel settore delle costruzioni, potranno diventare fino a 6 miliardi di euro con l'indotto e quella che è la stima del vice ministro delle infrastrutture e trasporti Mario Ciaccia, creare addirittura 100.000 posti di lavoro. I 2 miliardi sono già disponibili, i cantieri devono essere aperti entro fine anno, dopo che il 5 ottobre i comuni avranno presentato i progetti definitivi. Ha raggiunto il vice ministro delle infrastrutture Mario Ciaccia la nostra Alessandra Schepisi. Le risorse delle quali diciamo c'è una disponibilità sono circa 2 miliardi, una parte sono del Ministero, una parte sono del Fondo Investimenti per Abitare che gestisce la Cassa Depositi e Prestiti, una parte sono quelle previste per l'efficientamento energetico e la risistemazione di edifici scolastici. Assieme fanno 2 miliardi, ma sono soltanto al nastro di partenza perché potranno diventare di più cammin facendo. Le associazioni di categoria chiedono però tempi rapidi, c'è questo timore che poi i progetti si perdano anche per lungaggini burocratici? I timori è giusto che ci siano, l'unico modo per sgomberare i timori è realizzare. Quindi lei ha parlato di cantieri, quando inizieranno? Io spero che sotto l'albero di Natale, anzi sopra l'albero di Natale. E come diceva e chiedeva giustamente la nostra Alessandra Schepisi, qualche timore dell'associazione di categoria, non tanto sul piano ma sulla partenza, sull'implementazione, sull'effettiva disponibilità di queste risorse c'è. Alessandra Schepisi ha raggiunto anche il presidente dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, Paolo Buzzetti. Noi condividiamo la valutazione molto positiva per i tempi con cui si è colta questa idea dell'intervento sulle città, che è fondamentale in tutto il mondo per rivitalizzare l'economia, per far ripartire poi l'edilizia, che è fondamentale, ma anche per la qualità della vita dei cittadini, per la necessità di creare spazi in cui nascano nuovi servizi, riqualificare. Fantastico, l'idea è giustissima ed è giusto anche che il governo si impegni insieme a regioni e comuni insieme, superando i limiti della concorrenzialità decisionale che esiste tra regioni e Stato, e quindi aver fatto tutto questo, aver creato una cabina di regia, aver avviato il processo, questo è positivissimo. Ora si tratta di farlo. Per farlo bisogna superare le inerzie nostre italiane, e quello che noi diciamo è che ci vuole un po' un concetto di questi progetti che i comuni presenteranno siano delle zone franche nelle quali dal punto di vista fiscale e burocratico si sperimenti tempi e modi assolutamente innovativi. Queste sono le condizioni, come anche nel resto del mondo è successo, perché questi vasti piani di riqualificazione partano creando occupazione e dando qualità alla vita delle nostre città. Così appunto il presidente del Lancio Paolo Buzzetti. Adesso c'è il GR, poi torneremo anche a cercare di capire che cosa stia emergendo da questi panel. Ricordo che a Chernobyl i lavori si svolgono tutti a porte chiuse, quindi poi è importante anche intercettare chi esce. Dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dagli studi di Radio 24 a Cernobbio, a Villa d'Este, per la prima giornata di lavori del workshop Ambrosetti. Già molte indicazioni le abbiamo raccolte dai nostri ospiti. Chiaramente la decisione presa ieri da Mario Draghi è l'elemento di maggiore novità anche per tutti gli ospiti di questa edizione. Non solo le borse festeggiano, ma abbiamo sentito anche molti banchieri raccontarci, Ghizzoni, Cucchiani, che insomma la situazione potrebbe migliorare, e soprattutto sul fronte dei prestiti concessi dalle banche alle imprese, piccole e medie aggiungo io in primo luogo. Lo spread oggi si è riposizionato su livelli non accettabili, ma decisamente migliori, 350 punti. Quello spagnolo, i rendimenti dei bonus, dei BTP spagnoli sono scesi per la prima volta sotto il 6%, non capitava da maggio, ed è una notazione importante. Dalla Germania, ripeto perché si fosse perso la prima ora del programma, Angela Merkel ha fatto sapere che la Banca Centrale Europea si muove all'interno di quello che è il quadro del suo mandato, quindi ha gettato altra acqua sul fuoco. Noi continuiamo a parlare e a tenere questo doppio binario, situazione dell'economia reale da un lato e anche però situazione delle decisioni di politica monetaria, legge Mario Draghi. Ieri, visto che continuate alcuni di voi, lo ribadisco, io amo Mario Draghi e su questo fatevene una ragione. Sì, amo anche il suo inglese, come ho avuto modo di dire ieri. A me piace quando c'è un italiano che parla un inglese. Poi alcuni hanno detto non è così bello l'inglese di Mario Draghi, ma chi se ne frega, c'è un inglese più che accettabile. Ringrazio per averci raggiunto negli studi Radio 24 l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Buonasera professore. Buonasera a lei. Allora non posso non chiedere, visto che ha fatto per anni il presidente anche dell'Unione Europea, un primo giudizio sulla decisione di Mario Draghi di ieri e soprattutto su un passaggio che forse lì per lì ieri nell'emozione delle notizie che stavano uscendo non è stato così sottolineato, il fatto che la BCE non ha votato all'unanimità, un membro tedesco si è sostanzialmente ha votato contro, ma questo non ha bloccato il meccanismo. Lì c'è una nota politica che forse lei è in grado di leggere meglio di me. Io ho visto in questo quasi il lato più positivo, cioè Draghi ha detto 15 giorni fa quello che voleva fare, lo ha fatto tranquillo, i tedeschi non hanno nascosto la loro posizione, hanno votato contro, ma sono andati in minoranza. Allora, attenzione, perché ritorna un bel gioco democratico in Europa, e quindi io lo vedo con favore. Naturalmente è chiaro che questo è un segno di coraggio, non è una decisione che risolva tutti i problemi, cioè ha spinto al massimo il potere della Banca Centrale Europea, non è andata fuori dalla sua decisione, ma più di questo la Banca Centrale Europea non lo potrà fare. A questo punto abbiamo bisogno che si svegli la Commissione e abbiamo bisogno che la politica prenda esempio dalla banca centrale. Che è una roba un po' buffa. Lei sa, professor Prodi, che questo le potrà dire che questi, i tecnici devono insegnare alla politica come muoversi? Ma che bisogna in Europa finirla con l'unanimità, questo lo penso profondamente. L'unanimità è il bacco che ha impedito all'Europa di far passi in avanti. Questo lei lo dirà nei prossimi giorni, anche arriverà mezza Europa qui a Cernobbio, tra l'altro segnalo Olli Rehn, commissario europeo agli affari economici e monetari, Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione europea, Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio europeo. Lei immagino che abbia ottimi rapporti con tutti loro, lo farà presente? L'ho già fatto presente, cioè il discorso della fine dell'unanimità è la premessa per la democrazia. Lei con l'unanimità non riesce neanche a gestire un condominio, cioè è inutile fare i giochini. Abbiamo bisogno di maggioranze qualificate, perché nessun paese deve essere messo in un angolo, tutto quello che vuole, ma c'è il momento in cui si vota. Per cui ieri vederlo applicato alla Banca Centrale a me è piaciuto moltissimo. Ecco, lei mi alza una palla, poi torniamo ai temi della Banca Centrale. Il fatto che se non c'è unanimità vuol dire che c'è un segno di vitalità democratica? Sì. Vuol dire che il PD in questo momento è molto democratico? Ma il PD è sempre stato molto democratico, ma è inutile però che lei mi tiri in una trappola interna, perché come ho già detto più volte, in politica o si è fuori o si è dentro. Ma Renzi, io che sono è fuori, il tedesco? Io sono tedesco fuori. Ma vede, se lei vuole, senza entrare nella controversia, farmi dire il mio parere sulle primarie, no? Che è sempre un problema complesso. Vede, quando i partiti avevano una struttura di formazione loro propria, sia il Partito Comunista che la Democrazia Cristiana che il Partito Socialista, in cui era proprio un cammino di carriera precisa, i ragazzi prima facevano i consiglieri comunali se erano bravi e poi via venivano misurati ogni passo, non c'era bisogno delle primarie. Adesso che i partiti sono diventate una macchina elettorale come in America, le primarie diventano quasi l'unico modo di designare i candidati. Non per nulla sono nati in America, dove il partito politico è andato in crisi molto prima che in Europa. Ecco quindi allora che la battaglia per la primaria può essere, se ben regolata, ripeto, se ben regolata, una cosa seria. E positiva. E positiva, seria vuol dire positiva. Sì, sì, sì, certo. Allora, restando però al tema di Cernobbio, il sondaggio che abbiamo fatto, che abbiamo raccontato all'inizio del programma di Radio Cor, come ogni anno, tra i vari manager, imprenditori, 140 tra imprenditori, manager e banchieri, aveva un voto quasi unanime, quasi un plebiscito, l'86%, a favore di un governo Monti bis. Allora, al di là del fatto che oggi Mario Monti abbia risposto indirettamente da Bari dicendo non esiste questa possibilità, però visto che lei poneva l'accento sull'elemento democratico anche nella decisione della Banca Centrale Europea, un paese, a un certo momento, la classe politica di un paese ha l'obbligo, proprio perché siamo in democrazia, di esprimere un suo candidato, cioè quello che vince le elezioni, oppure noi, come si fece ai tempi di Ciampi, Dini, Amato, siamo in una situazione di tale emergenza per cui, tra virgolette, potrebbe esserci una sospensione della democrazia, non nel senso che non si va a votare, ma nel senso che poi comunque i partiti fanno un passo indietro e non pongono il loro segretario del partito vincente come presidente del Consiglio. Ragioni, però non diciamo con questo che il governo Monti non sia nella piena... No, ha una maggioranza parlamentare di parte. Quindi la risposta era nella sua domanda. Se ci fosse un'altra situazione di assoluta emergenza si può fare ricorso ancora a un governo tecnico, ma è nella normalità delle situazioni che chi si presenta alle elezioni e vince le elezioni designi quello che sarà il Presidente del Consiglio. Perché? Perché questa diventa la volontà popolare, non per un altro motivo, insomma, no? E io spero che l'Italia entri in questa normalità. Ecco, quindi lei un Monti bis non convincerebbe? Potrebbe benissimo convincermi, ma solo se si creano le situazioni per cui questo sia utile e necessario. D'altra parte la risposta l'ha data Monti stesso, no? Lui diceva oggi, proprio l'ho letto, l'ho sentito, che non pensa a un discorso di questo genere. però so benissimo che se fosse necessario è chiamato, per la situazione di emergenza del paese lo farebbe. Ma lei non teme che da questo punto di vista dall'esterno arrivino poi le pressioni, cioè se non ci fosse una fiducia da parte dei mercati e dell'Europa nei confronti di quello che sarà l'esito elettorale di marzo, noi ci ritroveremo banalmente con uno spread che tornerà a sfiorare i 500 punti, cioè che poi questa scelta possa essere dettata in maniera esterna, eterogenea, non... Ma io mi chiedo, scusi, ma perché i mercati, mettiamo che ci sia un risultato elettorale chiaro, mm-hmm. no? Ma perché i mercati mondiali che hanno ricevuto con piacere Cameron in Gran Bretagna, Hollande in Francia, non debbono ricevere con piacere un vincitore delle elezioni italiane? Qual è il nostro vero problema? Che abbiamo un sistema elettorale che non sempre, anzi raramente, dà vita a un vincitore chiaro. Ma qui è un altro problema, no? Non è un problema di necessità del paese, è un problema della scelta di una legge elettorale che è assolutamente inadatta a dare un governo stabile. Ieri, professor, adesso parlo all'economista Romano Prodi e non al politico, ieri il professor Sapelli, in diretta con noi, ogni tanto lo ascoltiamo, ha detto, ma sì, Monti è keynesiano quando va in Europa e invece monetarista, diciamo, alla Friedman quando è in Italia, come dire, che in Europa chiede più tempo per politiche di sviluppo e invece in Italia applica una politica del rigore che deprime i consumi. Molti ascoltatori sono molto critici nei confronti del governo Monti, deprime i consumi, non permette di far ripartire l'economia, tasse, aumento dell'età pensionabile, pochissime misure per lo sviluppo. Le faccio però prima sentire cosa ha detto oggi Monti da Bari proprio sul tema del governo che ha la crescita come obiettivo. La crescita, non faccio un'affermazione ironica, la crescita è l'obiettivo centrale del mio governo e non si realizza senza interventi radicali. Siccome interventi radicali non sono stati fatti nella misura che sarebbe stata necessaria per anni o per decenni, abbiamo dovuto cercare di concentrarli o di concentrarne l'avvio in poco tempo. E il primo di questi interventi radicali è proprio quello di cambiare la mentalità, soprattutto al sud. Così Mario Monti, presidente De Prodi, le chiedo un minuto di pazienza, abbiamo il traffico e poi la risposta all'obiezione di Sapelli, che dice un Monti quasi dissociato, keynesiano in Europa per lo sviluppo e invece rigorista, modello fondo monetario, scuola monetarista in Italia. ...18:19, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Prodi, è così? C'è un Monti che ha due politiche? Può anche essere benissimo, ma qual è il problema? È che sono i paesi europei che chiedono a Monti di essere rigoristi d'Italia. E siccome noi, come ormai tutti i paesi europei, abbiamo perso la sovranità, ma non solo i paesi europei. Se ricordi che con la speculazione internazionale tutti i paesi del mondo, escluso la Cina e gli Stati Uniti, hanno perso la sovranità. Quindi è chiaro che i comportamenti interni di Monti non possono non tener conto di questo fatto. Allora, qual è la via d'uscita che io predico da mesi e mesi? Un'alleanza di interessi con Francia, con Spagna, con Austria, con altri paesi, di trovare un compromesso fra questo rigore che uccide l'economia e la serietà di avere obiettivi di lungo periodo di aggiustamento del bilancio. Si può trovare un compromesso? Sì, io penso che se si ha un orizzonte di lungo periodo questo lo si può ma trovare. Un'alleanza tra virgolette antitedesca o antitedesco-olandese, finlandese? No, lei deve capire che se si porta avanti una piattaforma robusta, condivisa da tanti paesi, non c'è bisogno di essere anti, ma si è rispettati. La frammentazione ti rende debole, no? Quello che per me, ripeto, è un anno che io batto su questo termine, occorre presentare alla Germania una piattaforma di interessi comuni. Alla fine, cosa ha fatto Draghi? ha messo insieme gli interessi, perché certo, è chiaro che quello che ha fatto interessava alle banche, non solo a quelle, non solo a quelle italiane, interessava a quelle francesi, interessava a quelle austriache. Ha messo insieme degli interessi per cui la Germania in fondo ha votato contro, ma non ha potuto opporsi, e la cancelliera non credo poi che sia stata così infelice dell'esito di questa votazione. Ecco, secondo lei, per concludere, professor Prodi, Hollande dopo l'estate, dopo le critiche che ha ricevuto in Francia per essere un po' troppo tentennante, per non aver preso una posizione più netta contro la Germania, ha decisamente fatto una scelta, un cambio di passo? Perché insomma, senza la Francia, questo, senza la Francia questo non poteva. Lo so, infatti in questo momento la chiave è la Francia. E se lei mi chiede, conoscendo molto bene la Francia, io spero che questo sia avvenuto, però vede, noi ci troviamo in una strana situazione, che la Merkel vuole la Federazione Europea, no? E la Francia, ma non vuole fare i passi per arrivarci. La Francia è disposta a fare i passi per arrivarci, ma ha paura del risultato finale. Io ho detto con una battuta che come il matrimonio fra una guardia notturna e uno che fa il servizio di giorno, che non possono mai avere figli. È difficile che sia consumato. Ecco. La ringrazio, grazie a Romano Prodi, ospite nostro qui agli studi di Radio 24 da Cernobbio. Grazie a voi. E adesso vorrei rispondere a qualche sms, ma anche tornare sul tema del piano energia, perché l'avevo annunciato precedentemente, un piano appunto dove il governo pensa di poter mobilitare fino a 180 miliardi di investimenti. Obiettivo appunto ridurre di 15 miliardi di euro la bolletta energetica entro 2020, rilanciare la produzione nazionale di idrocarburi, sostenere le rinnovabili, il rafforzamento del ruolo italiano di hub del gas. Ne parliamo con il presidente di Assoelettrica, Chico Testa, nonché anche ex presidente dell'Enel, che ci ha raggiunto qui nella nostra postazione. Buonasera. Buonasera. Dicevamo, un piano energetico che, senza tornare nei dettagli, si basa sostanzialmente su un maggior sfruttamento e produzione nazionale, petrolio e gas. Vedremo cosa succederà per il limite per le piattaforme attualmente a 12 km dalla costa. I rigassificatori, quindi l'hub del gas. Esatto, l'hub del gas, non solo l'estrazione, ma anche diciamo lo smistamento e lo stoccaggio, e poi la parte che riguarda le rinnovabili. L'obiettivo complessivo dovrebbero essere 180 miliardi addirittura di investimenti che si svilupperanno. La vostra posizione, ma soprattutto se da questo punto di vista lei vede qualche criticità. Ma il primo giudizio su queste misure è un giudizio positivo, tanto perché presenta un quadro abbastanza coerente di misure, e quindi è stato fatto uno sforzo di sistemazione importante. Secondo, perché le singole misure sono di per sé tutte condivisibili. Voglio ricordare che la prima cosa che metto al centro, che non è stata citata, ma capisco, è il tema dell'efficienza energetica, che riguarda un po' tutti i settori, il settore elettrico, trasporti, domestico, eccetera, eccetera, sempre nello sforzo di diminuire, perché la priorità è diminuire il costo dell'energia, certo, perché purtroppo noi paghiamo l'energia diciamo 20-25-30% in più rispetto agli altri paesi, e questo ammazza la competitività delle imprese e pesa sulle famiglie. L'efficienza energetica è un modo per ridurre i consumi energetici complessivamente. C'è una seconda priorità che lei ha ricordato, che è quella del gas, perché l'altra cosa è il differenziare il prezzo del gas italiano rispetto agli altri europei. Il gas, non solo quello consumato domesticamente, ma soprattutto quello che serve per la produzione di energia elettrica. Noi siamo un paese, voglio studiare questo aspetto, noi abbiamo un parco termoelettrico che è il migliore d'Europa in termini di efficienza. Non riusciamo ad esportare energia elettrica, ma invece la importiamo, 50 miliardi di kilowattora all'anno su 300 complessivi che consumiamo, perché il costo del gas rende la nostra energia elettrica non competitiva con quella del resto. Quindi non è un problema di come siamo efficienti nel produrre energia elettrica dal gas, ma è il costo del gas che importiamo. Esatto, no, siamo efficientissimi. Negli ultimi 15 anni il parco termoelettrico italiano è stato completamente rinnovato. E quindi si pone di nuovo, al di là di un'efficienza del sistema e della filiera interna, il problema fondamentale, poi, come si sarebbe detto una volta, a monte, e cioè dell'approvvigionamento energetico. Allora, su questo il mix... Ricordo che l'Italia dipende dall'estero per più dell'80%, la media europea è 52-53%. Ecco, su questo, al di là dell'ipotesi nucleare, su cui lei tra l'altro creò... Sì, oggi venne attaccato di eresia, insomma, per la sua riposizionamento sul nucleare, però al di là del nucleare che mi sembra superato, il governo punta a un mix sostanzialmente fatto di maggiori canali di accesso, sì, leggi rigassificatori, sì, diversificazione anche nelle fonti di approvvigionamento e possibilità di andare a estrarre più gas e petrolio. Ecco, sull'ultimo aspetto, sì, lei ritiene, perché ne abbiamo sempre dai tempi di Mattei che si parla del, certo, prima della pianura padana, come, certo, il nostro Golfo Arabo e poi adesso della Basilicata, c'è ciccia, per usare un termine poco... Ma sa, a giudicare dal numero di compagnie petrolifere che chiedono permessi di concessioni per fare esplorazioni e eventualmente estrarre, direi di sì. Poi lasciamolo giudicare agli investitori, perché non è che uno va in giro a bucarellare l'Adriatico o il Tirreno così per sport, perché oltretutto sono investimenti molto costosi. Ora, io capisco che questo sollevi problemi ambientali, però vorrei ricordare due cose. Uno, l'ho già detto, l'82% dell'energia noi ce la portiamo dall'estero. Secondo, che il rischio geopolitico rimane fortissimo, come ha dimostrato anche la primavera araba, come dimostra il clima generale che c'è in Medio Oriente. Stamattina no, non mi ricordo quando era, a Cernobbio, diceva mi aspetto un'impennata del prezzo del petrolio, perché la questione tra Israele e l'Iran non è una questione sciolta, poi c'è la Siria, eccetera eccetera eccetera. Grazie, perché siamo veramente in dirittura d'arrivo con il programma. Grazie al presidente di Assoelettrica, Chicco Testa. Da Cernobbio e dal workshop Ambrosetti veramente tutto. Domani comunque Radio 24 sarà presente per raccontarvi la seconda giornata di lavori, e poi anche domenica quella più politica, più dedicata all'Italia. Un ringraziamento come sempre venerdì a Mauro Del Corno e a Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte e Luca Buratto per l'assistenza tecnica qui da Cernobbio, e a Simone Spezia per l'aiuto che ci ha dato nel raccogliere le interviste. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi in diretta dalla Fiera del Levante di Bari.